romano perché è una favola. Vivo su un cratere di materia nucleare, non mi sembra affatto male, basta abituarsi un po'. Vivo sul cucuzzolo della montagna grigia, dei rifiuti tossici. Mi sembrava il giusto modo di sognare il mio avvenire. Si guadagna.